in primo piano. La sensazione è che, non so se come titola Libero siamo a un livello di guerra santa, questo è il titolo di prima pagina di Libero, ma certo la vicenda Ruby, la richiesta della procura del giudizio immediato per il Presidente del Consiglio, la risposta ieri, l'avete sentita anche nel GR, molto stizzita, di Berlusconi che dice farò causa allo Stato. Poi è rispuntata l'ipotesi di un decreto contro le intercettazioni, ne parlerò con Napolitano, ma c'è la nota del Quirinale molto fredda, non risulta alcun incontro. Insomma, l'idea che ci sia davvero una battaglia politica finale alle viste. Sfogo del Premier, è uno schifo eversivo, dovrò fare causa allo Stato. Questo a pagina 3 del Corriere della Sera, ma tutti i notisti di politica, da Francesco Verderami scrive l'offensiva in Parlamento, il capo del governo teme lo schema del 94, parte la chiamata alle armi e vedete anche sulla stampa il PDL mette l'elmetto, ora siamo in guerra, questa è la retroscena di Amedeo La Mattina, oggi il Premier al Quirinale viene definito così, ma Napolitano nessun faccia a faccia. Certo però c'è un fuoco di sbarramento senza precedenti annunciato da parte del Premier. Tra l'altro questa offensiva passa attraverso un retroscena che Libero mette a pagina 2 che è questo. Berlusconi avrebbe, secondo Libero, secondo Salvatore Dama, che è sempre molto bene informato su quello che succede attorno al Premier, offerto addirittura ai suoi le dimissioni. Se ritenete che il problema sia io, sono pronto a fare un passo indietro. Mi dimetto e andate avanti senza di me. Così avrebbe detto a Palazzo Grazioli Berlusconi ieri incontrando tutti i suoi fedelissimi. A un certo punto, dopo aver giurato ai membri dell'ufficio di presidenza del PDL di essere innocente, Berlusconi ha messo così sul tavolo il suo mandato. Neanche finisce la frase che il ministro Altero Matteoli lo interrompe. Ma presidente, che dici? Questa aggressione è contro di te, ma anche contro tutto il partito. E allora altre 40 teste annuiscono e si è deciso. Il PDL diventa un caterpillar contro i PM di Milano. C'è chi suggerisce di denunciare le toghe rosse in base all'articolo 289 del Codice Penale, attentato contro gli organi costituzionali. Chi rilancia l'ipotesi della piazza, chi propone di accelerare i tempi di riforma della giustizia, chi invece rispolvera l'idea del decreto sulle intercettazioni, cioè per limitare le intercettazioni. Insomma, la situazione è questa, basta vedere oggi il foglio con Giuliano Ferrara che è sceso nuovamente in campo, annuncia questa manifestazione. Tra l'altro vi annuncio che alle 8:20 avremo ospite Piero Stellino, editorialista del Corriere della Sera, ex direttore del Corriere della Sera, che ha aderito alla manifestazione di Ferrara. Se uno prende il foglio, le due pagine centrali sono a caratteri cubitali con questa dicitura: una repubblica puritana è illiberale e antidemocratica, basta con il buco della serratura, tutti a teatro dal Verme a Milano sabato 12 febbraio 10:30, i lettori stufi della porno politica possono appendere questo manifesto a scuola e al lavoro. E lo slogan del foglio è in mutande ma vivi, c'è tra l'altro ci sono il ritratto fatto da Vincino delle mutande. Insomma, il clima è questo, di scontro davvero alle porte, anche perché c'è molto sdegno da parte di alcuni giornali, per esempio il Giornale stesso nei confronti di chi ha pubblicato tutti questi sms, peraltro pubblicati dal Giornale stesso. Gli sms sono quelli di Sara Tommasi, la vicenda che deriva da Napoli, oggi ancora pieno di paginate, di reazioni, controreazioni sulla vicenda di questi sms, in alcuni casi effettivamente bisogna dire farneticanti, no? Alcuni li abbiamo messi ieri su Facebook nella nostra pagina 24 mattino, la gente ci scriveva no, diteci che state scherzando, non è vero, tipo l'SMS prendi Ronaldinho, fallo tornare, se no dico a Obama di escluderti dai grandi del mondo. Questo dal cellulare di Sara Tommasi al cellulare in uso del Presidente del Consiglio, leggendo i giornali di ieri. Ci sono ancora nuovi sviluppi, intanto il Corriere della Sera e sulla vicenda Sara Tommasi è quello che dà una notizia in più. La Tommasi e il viaggio a Sofia sull'aereo presidenziale, a pagina 6 sono Fulvio Buffi e Fiorenza Sarzanini che firmano questa notizia che ha solo il Corriere. cioè Sara Tommasi avrebbe fatto parte del viaggio, una trasferta con Vittorio Sgarbi e lo stesso Berlusconi nel viaggio del 14 giugno scorso, una visita ufficiale a Sofia durante il quale il capo del governo inaugurò la statua di Giuseppe Garibaldi alla presenza del primo ministro Borisov, il primo ministro bulgaro. Sull'aereo di Stato c'era effettivamente Sara Tommasi, nota per aver partecipato a alcuni programmi televisivi all'Isola dei Famosi, così scrive il Corriere della Sera. Prelevata, racconta, io spiegai che avevamo, questo c'è in queste intercettazioni di tale signor Amirante, avevamo organizzato una sera, ma all'improvviso lei fu chiamata da Sgarbi, che le disse di tornare immediatamente a Roma. Allora l'accompagnai all'uscita di Caglianiello dell'autostrada, quando lì arrivò Sgarbi a prenderla con l'autista. Le parlai il giorno successivo, mi disse che era tornata ma stava malissimo, si era dovuta far ricoverare per una intossicazione. Ma di Sara Tommasi c'è molto, c'è un'intervista a Sara Ventura, sia sul Fatto Quotidiano sia sul Corriere della Sera, parla un po' di tutte queste vicende. Sara Ventura parte da Raffaella Fico, che è un'altra delle showgirl che è citata nell'inchiesta in queste serate ad Arcore e ora farà parte dell'Isola dei Famosi. Quando l'abbiamo scelta non ne sapevamo assolutamente nulla. Simona Ventura poi parla un po' di tutta questa vicenda. Intanto di Emilio Fede non ci posso credere, però visto che a giugno pare che Mediaset lo mandi in pensione, forse è tutto vero. Se è vero ha fatto una cosa gravissima, si riferisce alla famosa presunta cresta su un prestito da Berlusconi all'Ele Mora. Immagino la delusione del premier, dice Simona Ventura, una vita spesa per persone che non se lo meritavano. E poi le gemelle De Vivo erano due pantere, intraprendenti sessualmente, non ne facevano mistero, meglio loro che le finte suorine. Di Sara Tommasi, guardi, mi spiace per lei, non ho mai pensato fosse un'educanda, però aveva tutte le possibilità di prendere altre strade. Io l'ho lanciata, era brava, bella, laureata alla Bocconi, poteva decidere di muoversi diversamente. E Nicole Minetti, non mi faccia dire niente, era il numero 4 della lista di Formigoni e lui ha perso il mio voto. Però Simona Ventura conclude: Berlusconi si dimetterà, non lo farà mai e né io me lo auguro. Chi c'è dopo di lui? Questa è l'analisi politica di Simona Ventura. E poi appunto Sara Tommasi viene intervistata da Repubblica. Silvio mi ha deluso, un leader non fa festini, ai party c'erano anche alcuni ministri. A pagina 9 viene intervistata da Paolo Berizzi. Il suo ex agente dice che lei deve curarsi, pensasse a se stesso, sono tutti uguali, lui, Corona, fanno i furbi, mettono la droga dentro i bicchieri delle ragazze. Di Rubi dice mai vista né lui e le altre. E riguardo a Berlusconi, mi chiese tu cosa vuoi fare? Gli dissi che volevo continuare nello spettacolo, ho fatto una cazzata, dovevo farmi imbarcare pure io come le altre, cioè farmi candidare in politica, dice. Sara Tommasi dice: io non faccio la escort, non l'ho mai fatta, non ho mai preso soldi per fare sesso. Anche al Quotidiano Nazionale tutti mi perseguitano, ora ho paura, datemi la scorta. Non ho mai partecipato a un festino col premier, solo cene, incontri pubblici. E poi su questi sms, perché c'è questo giallo, gli sms, ma non lo so, negli ultimi mesi ho perso il cellulare 3 volte, al TG della 7 ha detto mi hanno rubato il cellulare 1000 volte, chissà, forse qualcuno si è impossessato del mio cellulare e ha mandato messaggi a mio nome. Anche se la vera distruzione della figura di Sara Tommasi c'è su Libero a pagina 6 per la penna di Alessandra Menzani, sentite come viene descritto Sara Tommasi: sesso, droga, risse, la folle vita di Sara. L'ultimo episodio da un anno a questa parte si è verificato venerdì scorso, dove Sara è stata cacciata dal proprietario di una pizzeria del centro di Milano perché si è messa a urlare e buttare vino rosso sui clienti, urlando, uscendo dal locale, il PDL mi deve 1 milione di euro. Durante le cene gli amici notano che è silenziosa, assente, ma un istante dopo magari si mette a cantare. Atteggiamenti provocanti con gli uomini. Un ragazzo che l'ha frequentata dice: dai, lei è seducente, ti palpeggia, su via, è molto bella, non riesce a dire di no. Ultimamente vorrebbe trovare un uomo perché, scrive Libero, ha un istinto, alterna momenti di euforia e libertà sessuale perché ha un istinto insopprimibile, sessuale, è alternato a periodi in cui nemmeno esce di casa, fragile, incline alla paranoia, scrive sms poco lucidi, insulti oppure avance spinte, dipende. Un mese fa doveva sottoporsi a cure, ma ha rinunciato. Recentemente è intervenuta Verissimo e alla domanda «Come conquisti un uomo?» «Faccio come Monica Lewinsky» e hanno dovuto tagliare la scena. Poi si sarebbe presentata da Chiambretti senza l'intimo, su una poltrona bianca come Sharon Stone nel film Basic Instinct, hanno dovuto tagliare la scena. Poi si è presentata nel retroscena di Calispera, quello di Alfonso Signorini, è stata allontanata dalla sicurezza. Cioè Libero la dipinge come una pazza, parliamoci chiaro. E sempre per quel che riguarda, perché questo è il livello del dibattito politico a cui siamo arrivati, sempre per quel che riguarda questa situazione, Beatrice Borromeo sul Fatto intervista invece Virginia Sanjust di Teulada, pagina 4, racconta la sua storia con Silvio Berlusconi, un incontro che distrugge la vita, quello che tocca diventa cenere. E ora Virginia Sanjust dice: Beatrice Borromeo la incontro perché vive in una clinica a Roma, le hanno tolto anche la custodia del figlio. Dice: c'è analogia tra i messaggi che io scrivevo a Berlusconi e quello che manda Sara, ossessivi e pieni di rabbia. Sembra che a lui, cioè a Berlusconi, possa accadere di tutto, ne esce sempre e comunque illeso. E lui mi diceva ogni tanto: Virginia, ho paura di farti del male. Questo Virginia Sanjust su Libero. C'è anche tutta la questione sulle intercettazioni con intervista a Luciano Violante, a pagina 8 del Corriere della Sera, che dice cose del genere, cioè la pubblicazione di queste intercettazioni avvengono solo in Italia e in alcuni paesi del centro e del Sud America. Ma ne parleremo anche di questo alle 8:20 con Piero Stellino, che sarà nostro ospite nell'intervista. Ora andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi partiamo da cose un po' più serie. In primo piano. Il piano crescita ieri è stato affrontato dal Consiglio dei Ministri e intanto trovate tutti i dettagli sul Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che peraltro, voglio ricordarvi, oggi esce in allegato al Sole 24 Ore Fare business con i social network, un'interessante guida su tutti i social network. Si parte oggi con Facebook, quello probabilmente più famoso, insomma, parte da oggi, lo trovate in allegato a 9,90 euro. Fare business con i social network. Ma dicevamo, il Sole 24 Ore oggi titola in prima pagina così: crescita, parte solo un mini piano. Che cosa si è approvato? Lo trovate tutto a pagina 6 e 7. Cosa si è approvato? Cosa invece è stato rimandato? Cosa si è approvato? Sostanzialmente la riscrittura degli articoli 41-97 e l'articolo 118 della Costituzione, un passaggio che però prevederà tempi lunghi visto il complesso iter che comporta le modifiche della Carta Costituzionale. Non è stato invece approvato, come ieri anticipava già il Sole 24 Ore, il piano sulla concorrenza e liberalizzazioni. Insomma, sulla crescita solo un piccolo passo, titola pagina 7 il Sole 24 Ore. Carmine Fottina e Marco Mobili ribadiscono i dubbi espressi da chi? Da Tremonti, il ministro dell'economia, che vuole riforme a costo zero e che alla vigilia del Consiglio, scrive il Sole 24 Ore, si vocifera proprio di forti dubbi dello stesso ministro dell'economia Tremonti sulla repentina accelerata. Ci sono anche i dubbi di Confindustria, che sono espressi sia dal presidente di Confindustria Marcegaglia sia dal direttore generale Galli, che in un'intervista pagina 7 della Stampa a Roberto Giovannini dice: è la scossa dell'economia italiana promessa da Berlusconi? Da economista dubito che le misure annunciate possano modificare in maniera significativa l'andamento dell'economia italiana quest'anno e nei prossimi anni. Qualche effetto positivo potrebbe venire dalle misure di semplificazione, ma però devono essere ancora approvate. Cioè non avrà grandi effetti, soprattutto a breve. La stessa posizione è espressa dal Foglio in prima pagina. Il titolo è «Un tesoro di ostacoli». E c'è anche qui il ruolo di Tremonti, messo in primo piano. La nostra agenda è dettata e definita dall'Europa in Europa. Questo è il commento di Giulio Tremonti, che ha partecipato ai primi 5 minuti della conferenza stampa di Silvio Berlusconi sul piano crescita varato dal Consiglio dei Ministri. Nessun commento sulle modalità di erogazione degli incentivi, niente sul piano per il Sud, nessun riferimento agli indici di sviluppo, così scrive il Foglio. Niente neppure sulla riforma dell'articolo 41 della Costituzione sulla libertà d'impresa. riforma che il ministro, secondo il Corriere, aveva commentato così: di questa riforma ho già scritto in un libro circa un decennio fa. Insomma, conferenza stampa di Tremonti che si è caratterizzata da che cosa? Da una sorta di silenzio, il silenzio tremontiano sempre enigmatico, definito così dal Foglio. E sta di fatto che su questo pacchetto per la crescita ci sono un po' di dubbi da parte dei commentatori. Veniamo alle notizie di cronaca che troviamo sui giornali. Io voglio partire proprio dal tema del nostro sondaggio, perché è un tema tutt'altro che secondario, a mio modo di vedere. È un tema che oggi infatti viene ripreso da due paginate dai giornali, a cominciare dalla Stampa: eutanasia ai cani, bufera a Cantù, sui tagli della sorella di Tremonti. Ebbene sì, c'entra sempre qui una Tremonti che sarà la nostra ospite, Angela Tremonti, che è consigliere comunale, è un artista nella vita, ma fa anche il consigliere comunale a Cantù, in provincia di Como, e ha detto, senza ipocrisie, tra l'altro viene ritratta sulla Stampa con i suoi due inseparabili terrier, è un animalista convinta, ama i cani, ama gli animali, ma ha detto: forse dobbiamo iniziare a discutere della possibilità di considerare l'eutanasia per i cani randagi, pericolosi, che nei canili non vengono ospitati, che nessuno vuole e che portano malattie, che rischiano anche di aggredire gli esseri umani. Perché non pensare, visto che costano molto, all'abbattimento? Ovviamente immaginatevi le polemiche, anche sul Corriere della Sera: la sorella di Tremonti, se nessuno li adotta, devono essere abbattuti, riferiti ai cani. Tra l'altro il Corriere della Sera, singolarmente, a pagina 22, o meglio, racconta, affianca questa storia, la storia di Gravina di Puglia, il paese in ostaggio di 1000 randagi, con sassi e bastoni contro il branco. Pare che a Gravina di Puglia ci siano dei branchi veri e propri di cani che mordono, e ci sono tantissimi morsi, persone aggredite che si presentano al pronto soccorso con i medici che dicono: non sappiamo più cosa fare. Arrivano di continuo persone a farsi medicare, cittadini di ogni età, spesso con ferite non gravi fortunatamente, ma il problema è che per ognuno di quei morsi è necessario seguire una profilassi, i morsi sono tanti. Ci sono dei comitati civici per dire: almeno sterilizzateli, non si sa perché l'ASL non sterilizza più questi cani randagi. Insomma, il tema c'è tutto, ed è questo del nostro sondaggio: sopprimere i cani randagi non adottati e pericolosi, si può dire. Siete d'accordo? Votate su radio24.it, ne parleremo alle 8.30. Tra l'altro, legato ai cani, c'è su tutti i giornali questa vicenda di una condanna, in questo caso assurda, a Corte di Cassazione, che ha condannato i padroni di alcuni cani che abbaiano a Regalbuto al carcere. I cani abbaiano di notte, padroni in cella, condannati dalla Cassazione. Per i giudici il loro dovere era calmare gli animali. E va bene, d'accordo, dan fastidio ai cani che abbaiano, ma questi signori, il signor in provincia di Enna è successo, Regalbuto, la Corte di Cassazione al signor Santo ha dato 2 mesi di carcere, sentenza definitiva, più spese processuali, una mazzata, tanto che l'avvocato ora avrà 30 giorni per chiedere misure alternative al carcere per Santo Granuzzo, 72 anni, padrone di questi cani che abbaiano di notte, per il quale la Cassazione ha detto deve andare in carcere per 2 mesi. Ma vabbè, noi ci fermiamo qui perché non è che c'è molto tempo, se non da segnalare un articolo sulla sicurezza stradale: neopatentati, le nuove norme possono guidare solo utilitarie. A pagina 14 il Messaggero, ma anche sul Quotidiano Nazionale, a pagina sempre 14, per 3 anni i neopatentati, questa è la novità, non potranno guidare autoveicoli che superano i 100, cioè solo le utilitarie, e non potranno superare i 100 km in autostrada. I neo patentati, anche questa è una notizia interessante che trovate sui giornali. Ci fermiamo per il GR e poi ripartiamo da Piero Stellino, l'editorialista del Corriere della Sera. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8.21 minuti. Voglio salutare l'editorialista del Corriere della Sera, Piero Stellino. Buongiorno. Buongiorno. Senta, lei ha aderito con convinzione alla manifestazione promossa da Giuliano Ferrara contro oggi scrive, la pornocrazia, la voglia di vedere nel buco della serratura. Perché, Stellino? Ma sa, quando si dice che qualsiasi mezzo è buono per cacciare Berlusconi, non è più in gioco Berlusconi, del quale a me non me ne può fregare di meno, sono in gioco le istituzioni, cioè in gioco la democrazia. La democrazia è quel sistema dove si può cacciare chi governa, non con qualsiasi mezzo, ma con le procedure della democrazia. Io ho la sensazione che ci siano degli aristocratici del pensiero che vogliano commissariare la democrazia. Chi sono questi aristocratici? Sono coloro i quali pensano che il popolo sia cretino, che non sa qual è il suo bene, e che quelli che votano a destra, io non sono di quelli perché non ho votato Berlusconi e non voterò Berlusconi, pensano che quelli che votano a destra siano quelli che parcheggiano in doppia fila. Bene, io vorrei che fosse chiaro che dal punto di vista mio, di vecchio liberale, chi dice questo è semplicemente un fascista, punto. E ne vede tanti di questi tempi? No, perché ci si chiede, da 15 anni che il paese periodicamente si interroga e si divide su pro o contro Berlusconi. Verrebbe da dire cui prodes, cioè a chi giova tutto questo? Ma guardi, io sono un seguace del proverbio inglese che dice che i gentiluomini parlano di principi, la servitù di persone. E quindi a me di parlare di Berlusconi non mi interessa proprio. A me interessa vivere in una società civile, in un paese, dove chi vota a destra, chi vota a sinistra, chi vota in alto e chi vota in basso, non è un appestato secondo gli altri, ma è il popolo che vota come gli pare. Io vorrei che ci fosse maggiore rispetto per la democrazia da parte di coloro i quali continuano a lavarsi la bocca con la famosa frase laici e democratici antifascisti. Beh, cominciamo a rispettare chi vota, chiunque sia e comunque voti. Senta, questo è il mio pensiero. La vicenda delle intercettazioni, come la giudica intercettazioni, poi sono diventate SMS, poi chissà quant'altro, insomma. Ma guardi, anche qui io non ne faccio una questione di tecnica, le intercettazioni sono utili per perseguire il crimine, io ne faccio una questione di diritti individuali. C'è una ragazza che frequentava le cene di Berlusconi, come si comportasse a queste cene a me non importa, ma resta il fatto che un pubblico ministero ha deciso che l'appartamento di questa ragazza dovesse essere perquisito e i gioielli di questa ragazza sequestrati. E solo i gioielli di pregio, perché potevano essere un regalo del Presidente del Consiglio. E anche se così fosse, ma perché devono essere sequestrati i gioielli di una persona solo perché è andato a cena a casa di un'altra? Questa, a mio avviso, è una violazione dei suoi diritti individuali. Rimangono però le accuse sono gravi e questo scontro fa bene, secondo lei, Berlusconi a metterla sul piano, è una cosa gravissima, sono cose schifose, i PM sono eversivi, farò caso allo Stato. Io ho scritto che Berlusconi farebbe bene a presentarsi davanti ai magistrati e difendersi davanti ai magistrati. Questo è il problema semplice. Poi, se è vero, e sarà provato, che Berlusconi ha commesso un reato, ci penserà un tribunale a condannarlo. Se invece viene fuori che è innocente, verrà assolto. Contemporaneamente, se è vero che il Presidente del Consiglio ha tenuto dei comportamenti, diciamo, non adeguati alla sua carica, anche coloro i quali lo hanno votato faranno bene avere nei suoi confronti un giudizio severissimo ed eventualmente anche non votarlo. Però è da lì che sempre si passa, dice. L'unico modo democratico che si deve partire da quello. Cioè, se il Presidente del Consiglio ha commesso un reato, come qualsiasi altro cittadino, verrà condannato o verrà assolto da un tribunale. Ma contemporaneamente c'è un giudizio politico sui comportamenti dell'uomo politico. Se l'uomo politico tiene dei comportamenti non adeguati al suo ruolo, è giusto che ci sia un giudizio molto severo nei suoi confronti. Un'ultima domanda, Ostellino, riguarda le polemiche che l'hanno travolta nel senso della dialettica su un suo editoriale nel quale parlava della fortuna sulle quale siedono le donne che liberamente, se decidono di utilizzarla, non per questo debbono essere definite prostitute. Se lei si è pentito, ha scritto qualcosa secondo lei? Non mi sono pentito affatto. Non si è pentito perché io le donne le ho difese. Le donne hanno il diritto di gestire la propria sessualità o comunque sia la propria vita come meglio credono. Nei prossimi giorni ci sarà una manifestazione a difesa della donna, cioè verrà presentato un prototipo di donna come fosse un'automobile e di una donna virtuosa secondo l'idea pubblica, collettiva e probabilmente anche condivisa che ne hanno appunto questi aristocratici del pensiero. La donna, in quanto astrazione collettiva, non esiste. Esistono le donne, ciascuna delle quali si comporta come meglio crede. Alla manifestazione della donna che verrà usata contro il governo, ci saranno molte donne, alcune delle quali hanno sposato degli uomini ricchi, magari anche più vecchi di loro. Sono tutte puttane? Sono soltanto donne virtuose quelle che hanno sposato l'operaio di Sesto San Giovanni? Ma non facciamo ridere. Ciascuno si comporta come crede. E io difendo le donne, la soggettività delle donne, le donne al plurale, non la donna come astrazione collettiva, cioè di donne tutte uguali, tutte virtuosamente, esemplarmente uguali come erano le donne sotto il fascismo. Io voglio vivere in una democrazia dove le donne siano al plurale e ciascuna donna abbia la propria soggettività e la propria soggettività di vita, sessuale, come meglio crede, e che possa sposare o andare con chi gli pare, senza che io necessariamente ne faccia una puttana o una donna virtuosa, secondo il prototipo, come un'automobile appunto, degli aristocratici del pensiero. Questo è il mio pensiero di vecchio liberale. Ha un nome, pensa, quando dici gli aristocratici del pensiero, oppure no, così non ce lo vuole dire? No, io non penso a un nome, no. Penso alla vecchia cultura azionista che ha sacralizzato le élite, le quali élite sanno qual è il bene del popolo e quindi si comportano di conseguenza. Vogliono una democrazia di alto livello, cioè quella che pensano loro. Per me la democrazia è il popolo che vota, sono gli uomini che passano per la strada, le donne che passano per la strada, l'uomo qualunque, quello che passa per la strada e che vota come gli pare. Io difendo la democrazia di popolo, non difendo la democrazia delle élite. Io la ringrazio, buona giornata. Arrivederci. Piero Stellino, grazie, editorialista del Corriere della Sera. Di che parliamo nel nostro sondaggio? Parliamo di cani. Ebbene sì, di cani, randagi, tanti in Italia. E qualcuno ha proposto, suscitando un dibattito, polemiche, a dire se nessuno li vuole questi cani, se sono pericolosi, se portano malattie. Perché non li abbattiamo? Perché non pensiamo all'eutanasia per loro? Scandalo nell'Italia, un po' velata di ipocrisia. Noi invece ne parliamo. Secondo voi è possibile pensare, sopprimere i cani randagi che nessuno vuole, che sono pericolosi, che costano, che portano malattie? Siete d'accordo? Nel nostro sondaggio, tra poco, se volete intervenire, 800 24 00 24. 24 mattino. Alle 8:34 minuti, allora parliamo di cani randagi, perché no? Sono tanti in Italia, qualcuno stima 600.000, per qualcuno sono un pericolo. Oggi il Corriere della Sera mette a pagina 22 il paese in ostaggio di 1000 randagi con sassi e bastoni contro il branco a Gravina di Puglia, in provincia di Bari. E poi c'è una proposta che sta facendo molto discutere, il tema del nostro sondaggio. Io sono o blanco o negro, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? La proposta l'abbiamo messa così: in caso di cani randagi che nessuno vuole adottare, che possono essere un pericolo, perché non pensare anche alla eutanasia in estrema ratio, alla loro soppressione? La proposta l'ha fatta, ma ci articolerà meglio Angela Tremonti, che voglio salutare. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Angela Tremonti è consigliere comunale a Cantù, è anche un'artista nella vita, e possiamo anche dirlo, insomma, così la gente lo sa. No, non possiamo dirlo. No, perché io sono io. Lei. Però si confondono. Diciamo Tremonti, la gente questo cognome lo conosce, no, possiamo dire, sorella del ministro Tremonti. Ma comunque, appunto, Angela Tremonti, consigliere comunale a Cantù, oggi leggo il titolo della stampa, non so se hai visto i giornali: eutanasia ai cani, bufera a Cantù sui tagli della sorella di Tremonti. Questo è il titolo. Oppure il Corriere: la sorella di Tremonti, se nessuno li adotta, devono essere abbattuti. Diciamo subito che lei ha dei cani. Allora, io in questo momento ho una cagnolina, i miei cani, purtroppo, quelli che ho avuto durante tutta la vita, da cani presi al canile a cani presi addirittura uno l'ho fatto arrivare dall'Inghilterra, sono cagnolini che ormai non ci sono più, perché gli anni passano e purtroppo, ahimè, i cani vivono meno dell'uomo. Certo, però ci spieghi questa cosa, perché qualcuno l'ha posta come una sua proposta, cioè siccome i cani randagi, se sono pericolosi, se nessuno li vuole, se nessuno li prende con sé, se portano malattie, forse è il caso di pensare all'eutanasia per loro? Allora, innanzitutto non sto facendo marcia indietro, ma il quotidiano di Como, la provincia, che è uscito appunto con Angela Tremonti, uccidere, ammazzare, eccetera, oggi si è ricevuto una smentita anche attraverso il mio legale, in quanto queste cose, io non, queste parole, questi verbi non li ho mai usati. Tutto nasce dalla sola mia richiesta come consigliera comunale e presidente di una commissione bilancio, a fronte di un prossimo consiglio comunale in cui andremo a deliberare uno stanziamento per il canile, dei documenti di questo canile consortile di Mariano, di cui Cantù è comune capofila, di una documentazione prettamente economica, gestionale, ma dal punto di vista economico, sì, di questo canile, richiesta che io ho fatto in data 24 gennaio e di cui non ho ricevuto nessuna risposta. Beh, perché lei insomma, a dire, spendiamo forse per questo canile più di quanto si spende per la protezione civile. Ma sì, è una cosa strana, perché sono capitate contemporaneamente due delibere, due proposte di esborso di denaro pro capite da parte di tutti i cittadini dei vari comuni, e io ho notato che la differenza fra quanto, che era mi pare 0,83 per la protezione civile, 0,50 per il canile, mi ha un attimo l'ha colpita. E lei però l'ha proposta questa cosa, cioè in ma estrema... Io non ho parlato con la giornalista di nulla di tutto questo. La giornalista, non ho ancora capito come abbia potuto mettermi in bocca cose del genere, perché se vuole le spiego oggi a lei, e so che siamo in onda, mi ascoltano tutti. Certo. Che i giornalisti, lo sappiamo benissimo, ci sono i bravissimi, non i buoni, ci sono quelli bravi. Gian Antonio Stella, un bravissimo giornalista. Come tutti, ci sono, come in tutte le categorie, ci sono quelli bravi. Ci sono quelli che invece di andare a prendere i documenti al canile, farseli dare, metterli insieme, chiamare me, chiamare quello del canile, chiamare l'assessore e quindi fare un'inchiesta a 360 gradi, mi ha messo in bocca delle cose che assolutamente non però esistono. Scusi, anche nella, parlando con la nostra redazione, signora Tremonti, sì, lei ieri ha detto non è ipocrita se si vuole pensare in estrema razio anche all'eutanasia per quei cani randagi che nessuno vuole, che portano malattie, che sono pericolosi. Insomma, si parla dell'eutanasia, qualcuno, per gli esseri umani, perché dovremmo non parlarne dei cani? Mi ha rubato le parole di bocca. Io dico, ma ci sono stati addirittura schieramenti, che direi ideologici e politici, di destra o di sinistra, contro o a favore dell'eutanasia di Eluana Englaro. Io sono una cattolica, mi sono esposta, ho avuto sul Corriere della Sera anche un mio quadro pubblicato, in cui io dico che assolutamente la vita non va toccata, perché la vita è sacra. Però dobbiamo fare un distinguo, un attimo di razionalità. L'uomo ha un'anima, l'uomo è un'entità, è una creatura, forse è il re, il principe del creato, e ha in più, dicono, la razionalità. Dall'altra parte ci sono gli animali, ma ci sono tutti gli animali. Io dico, ci sono le caprette, ci sono i conigli, le lepri, gli orsi. Certo. Allora, dobbiamo pensare con razionalità a risolvere alcuni problemi. Innanzitutto l'equilibrio, perché c'è un ecosistema anche fra gli animali. Quindi, se arriviamo non in zone come quella della Brianza, dove non ci si immagina ma neanche, parliamo della Sardegna, della Calabria. Dove ci sono questi problemi di randagismo, lì si potrebbe pensare a... Io sinceramente non ho neanche l'autorità per decidere una cosa del genere, perché qualcuno pensa che io abbia anche una poltrona, ma io prendo 27 euro lordi ogni seduta del Consiglio Comunale. Lei non ha l'autorità, però ha sfatato un po' questo tabù. Guardi che la sta ascoltando, io voglio salutarla, Carla Rocchi, Presidente Nazionale dell'EMPA. Non la conosco. Protezione Animali, buongiorno Presidente Rocchi. Buongiorno. Abbiamo fatto ascoltare, insomma, perché Angela Tremonti che cosa fa secondo lei? Esagera, perché gli animalisti, alcuni hanno scritto vergogna. Io prendo atto con piacere della precisazione della signora Tremonti, che dice di essere stata fraintesa, perché le notizie come sono circolate fino a ieri, fino a stamattina, avevano non solo inquietato molti, ma anche addolorato molti. Sempre colpa di noi giornalisti, mannaggia. Io prendo atto di quello che sento, stamattina ascolto la signora Tremonti che dice: io sono stata fraintesa, e da questo punto io intendo partire. Perché se fossimo partiti invece dal fatto, io confermo quello che dicono i giornali, il mio intervento sarebbe però stato molto diverso. Lei ha detto: io non ho fatto marcia indietro, hanno esagerato, io non voglio abbattere nessuno, io amo i cani. Però, abbia pazienza, punto è questo. Io ho ascoltato la signora Tremonti e prendo atto del fatto che dice: io non ho detto le parole che sono state riportate dai giornali. Faccio io qualche puntualizzazione. Sì. Primo, La stessa signora Tremonti dice che un cittadino di Cantù spende per il canile dove vengono portati i cani 0,50 euro, cioè 50 centesimi. Sarebbe stato davvero risibile, senza fondamento, fare una polemica per 50 centesimi l'anno, non al giorno, l'anno. Devo sfatare un'altra cosa: i cani non portano le malattie, questa è una roba medievale, cioè l'idea che esistano i cani che portano le malattie è un modo per fare ricorrentemente del terrorismo. Detto questo, esiste una legge dello Stato, la signora Cantù è un consigliere, è una persona che è nella pubblica istituzioni. La legge dello Stato tutela gli animali, ma non perché li voglia tutelare a dispetto di qualcuno, tutela soprattutto la salute pubblica, perché un animale che viene affidato a un rifugio, affidato a un canile, viene curato, le vengono fatte le analisi, i vaccini, le cose, quindi è un dato di sicurezza per l'animale e per le persone. L'equilibrio che è stato trovato con la legge vigente è un equilibrio positivo, ce lo invidiano tutti i paesi d'Europa. C'è la legge. Io tanto voglio anche salutare, perché così magari introduciamo un altro elemento, Giovanni 25, buongiorno. 25. È il sindaco di Scicli, in provincia di Ragusa. Voi ricordate, forse noi lo chiamammo anche all'epoca, un anno fa circa, una vicenda drammatica, due anni fa per la verità, di un branco di cani che uccise un ragazzino di 10 anni. È così, sindaco. Fatto che non si doveva verificare. Io intanto ne approfitto per salutare la consigliere Tremonti, che non conosco, però nello stesso tempo la presidente dell'AMP e la dottoressa Rocchi, che conosco personalmente. Perché lì sindaco ci fu, dopo quell'episodio, qualcuno, il prefetto di Ragusa, che disse: abbattiamo questi cani. Sì, ma è durato solo un paio d'ore, perché sostanzialmente è arrivato un fax dal ministero che ha vietato tassativamente, ma non era abbattiamo, era mettere il sonnifero e prendere i cani. Difatti i risultati poi sono stati devastanti, perché il branco si è disperso e ci sono voluti parecchi giorni per recuperarlo e metterlo in sicurezza. Per cui io potrei aggiungere solo un passaggio che non lascia, comporta delle riflessioni, che è quella che il mio comune, con bilancio dei cittadini, spende per i cani più dei servizi sociali. Questo è molto significativo. Più dei cani, più ai cani che ai servizi sociali spendete. Ma io lo dimostro subito, perché da quei dati si fatti, noi intanto disponiamo di due canili in provincia che sono prettamente privati, dove i cani vengono accutiti nel migliore modo possibile, con un costo di 4 euro al giorno per ogni cane. Consideri che noi abbiamo intorno a 100-120 cani ricoverati, per cui il calcolo lo potete fare tranquillamente. Nel corso dell'anno sono parecchie migliaia di euro. In più, noi quando avvistiamo dei cani segnalati dal cittadino comune oppure è segnalato ai vigili urbani, agli uffici competenti, noi abbiamo il dovere di chiamare uno dei due canili in modo tale che mandano una squadra per recuperarli. Il costo, prendono o non prendono il cane, di 70 euro, per, è una forma di ticket, una chiamata, per cui i conti aumentano una volta. Sì, sì. Di contro, io ho precisato, bilancio comunale, perché un quattrino, un centesimo da parte degli organi competenti, quale può essere la regione, o chi peraltro il mio comune non l'ha mai avuto. Sono in atto la costruzione di diversi canili comunali in te città della mia provincia, sì. Però essenzialmente i lavori sono fermi e sono di là da venire. Il problema è discutibile. Io intanto mi rallegro per questa proposta, ma nei giusti termini, fatta dalla consigliera Tramonte, perché anche potrebbe essere anche condivisibile in certi cani, però non dimentichiamo che tanti cani non abbiamo avuto, diciamo, padronanza, possono essere benissimo recuperati. Sì, no, ma sicuramente, cioè, non è che uno dice, e per carità, Angelo Tremonti dice, non ho neanche il potere di andare ad abbattere, parola che non ho mai usato peraltro, i cani. Però fermiamoci, ci sono le informazioni sul traffico, poi voglio ripartire, perché insomma, almeno sfatare questo tabù, per sfatare questo tabù almeno ci vuole qualche discorso anche un po' senza ipocrisia, no? Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, a me ha colpito molto quello che ci dice, vorrei Angela Tremonti, quello che ci ha detto, se vuole intanto replicare al Presidente Nazionale dell'ENPA, ma anche al Sindaco di Scicli, che dice, noi nel bilancio comunale abbiamo a bilancio più soldi per i cani, per tutte le vicende che ci ha spiegate, che per i servizi sociali. È un po' questo che l'ha animato anche la sua riflessione, no? Mi sembra di capire. Devo dire che il mio interessamento nei confronti di questa situazione è nato dal famoso calendario di Sala, che mi aveva veramente sconvolto. Cioè il calendario di Sala, esatto, di... non dimentichiamo perché qui le cose che presentarono anche... un calendario con un tronista, se non sbaglio, sì, e i fondi servivano per il canile di Gravina. Sì, io credo che qui veramente confondere gli umani, i problemi dei ragazzini rom nei campi profughi, anche se sono rom, sono comunque esseri viventi e l'uomo è sacro, i bambini non parliamone, con la morte di Sara e metterci insieme i cani, mi sembra che qui è una cosa abbastanza, comunque non entro neanche qui nel merito perché non sta mai a giudicare. Sono andata ad informarmi, io ho notato che quasi 85 milioni di euro all'anno sono a carico dei comuni e molti comuni registrano una spesa di 1000 euro all'anno per cane. Perché? Perché dai dati che io ho avuto in consiglio, che dovrò discutere in consiglio comunale, a questi dati, giustamente il sindaco ha detto che vanno inseriti i costi di cattura, quindi uomini, che almeno 20 euro sì, all'ora, certo, è giusto, certo, che li abbiano, più tasse, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono le spese di un canile sanitario dove il cane deve essere mantenuto per almeno 10 giorni. C'è l'identificazione del cane, e ahimè, i microchip li mettono solo i padroni dei cani che se li tengono, non quelli dei randaggi. Sì, sì. I farmaci, la profilassi, le terapie, e poi non dimentichiamo che un veterinario pubblico ha uno stipendio che varia dagli 80.000 ai 150.000 euro l'anno. Tutto un po' troppo, ma tra l'altro lei ha detto c'è anche un po' di ipocrisia, uccidiamo i polli, uccidiamo le mucche, mangiamo gli animali, derattizziamo, però derattizziamo, si abbattono le mucche, quelle che sono rimangono a terra. Però parlare dei cani è tabù. È tabù. È tabù, questa cosa veramente mi fa dubitare, forse non lo so. Poi ultima cosa, la legge dice sì che i cani non debbano, che gli animali non debbano essere abbattuti, eccetera, se non in casi in cui non stanno bene, non sono nelle migliori condizioni. Ma mi permetto, per carità, non vorrei dire, ma se l'uomo in carcere e dietro le sbarre sta male anche il cane. Quindi questi cani che sono chiusi nelle gabbie, se potessero parlare, buon Pennac con Abbaiare Stanca ci ha insegnato che quasi hanno un'anima, e forse mi ha anche convinto. Ma come stanno? Quindi se la legge all'articolo 2,6 prevede la soppressione del cane incurabile, il cane che vive in un canile dietro le sbarre, psichicamente... È un cane che sta bene o è un cane detenuto e quindi con una malattia psichica? Allora Angela qui lo dice, lo ammette, consapevole dice, lancio un'altra provocazione. Sì. Apriamo le gabbie a tutti gli animali. Sì, poi succede come a Gravina con i branchi, Carla Rocchi vuole. Carla Rocchi, presidente. Ma guardate, io però sono veramente sorpresa che il livello della discussione sia questo ormai. Esiste una legge dello Stato. La legge dello Stato tutela gli animali e insieme le persone. I costi che vengono sopportati per questi animali sono certamente diversi nei diversi posti d'Italia. A Scicli c'è un costo alto perché il fenomeno del randagismo è stato affrontato in tempi più recenti. Sì. Ma nel nord d'Italia, per esempio, il fenomeno è contenutissimo. C'è da dire che i cani in certe strutture stanno male, ma in certe strutture stanno benissimo. Ho capito, però, Presidente Rocchi, lei ha letto già il Corriere oggi. Cioè, a Gravina di Puglia ci sono persone che quotidianamente, ci sono dei branchi di cani, certo perché sarà stata fatta una politica sbagliata di contenimento, di sterilizzazione, non lo so. Le posso dire una cosa? Se noi vogliamo, ci sono gente che viene morsicata tutti i giorni, si presenta al pronto soccorso. Questo scenario che lei fa è uno scenario inesistente. Allora, leggo il Corriere, Gravina di Puglia. È uno scenario inesistente. Se noi abbiamo bisogno di drammatizzare una cosa che è drammatica, non è, possiamo usare qualunque tipo di tono. Il punto è, esiste una legge dello Stato che si prende cura degli animali e delle persone, si prende cura di un problema che è anche un problema di salute pubblica, nel senso che gli animali controllati sono una garanzia. A questo punto le strutture esistono, sono strutture pubbliche, sono strutture di associazioni. Io andrei a guardare nelle strutture che invece della malavita tengono i cani in condizioni incompatibili. Però questo fatto di fare a tutti i costi, buttare un sasso nello stagno perché di qualcosa si deve parlare. Ma per carità, ma guarda che io lo trovo in, sono le testimonianze. Io leggo il Corriere della Sera oggi, cioè, ci sono un medico di guardia che dice ogni giorno viene qualcuno che viene morso da un cane. C'è un problema effettivamente anche di comitati civici nati per dire risolviamo questa situazione. Ma da un punto di vista dei dati del Ministero della Salute, tra l'altro il sottosegretario Martini andrà a quel canile di cui si interessa la signora Tremonti. Sì. Lo sa da un punto di vista di statistica di morsicatura quali sono i morsi più frequenti, oltre il 90%? I cani che sono in casa, certo. A cui sfugge un momento, cioè il cane randagio demonizzato in questo modo serve soltanto a canalizzare sul cane una forma allora, di aggressività. No, guardate, comunque lei respinge questo. Io mi devo fermare perché il tempo è scaduto. Devo ringraziare tutti. Carla Rocchi, presidente nazionale dell'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Angela Tremonti, presidente della Commissione Bilancio a Cantù, consigliere comunale a Cantù, che glielo dico, signora Angela, ci hanno chiamato come ascoltatori, volevano intervenire anche il canile di Mariano Comense che lei ha citato. Non c'è tempo, sono arrivati fuori tempo massimo, io se no sforo. Però ci hanno chiamato, chissà, magari torneremo su questo tema. Saluto anche Giovanni 25, sindaco di Scicli a Ragusa. Gli ascoltatori oggi, ripeto, non c'è stato tempo per farli intervenire, ma il tema, vedete, è appassionato molto e magari ci torneremo, perché no. Intanto su Facebook 24 mattino trovateci, continua la discussione con il neo ingresso Alessandro Longoni, eccoci qua in redazione, come ci sarà anche la sua foto tra poco, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè l'alpino, assolutamente inamovibile in regia. Ci sentiamo domattina alle 7:20, ora la linea Oscar Giannino.